Buonasera. E come di solito cominciamo con la lettura del Sutra del Cuore. Poi aggiusteremo la nostra motivazione, cioè prenderemo rifugio, aggiusteremo la nostra motivazione e andremo avanti col testo. Okay? Come si dice nella tradizione, no, orale, che la recitazione della Sutra del Cuore è un doppio beneficio. Cioè, il primo è di mettere delle impronte per realizzare il significato. Significato della realtà ultima, quindi la vera natura dei fenomeni, e la seconda di eliminare interferenze interne e esterne al successo delle nostre attività. Okay. Quindi, okay. Mi prostro ai tre gioielli supremi. Così una volta udì il Bhagavan dimorava a Jagir sulla montagna picca del Voltoio insieme a Vasto Sangha di Monaci e Vasto Sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vedi anche in cinque aggregati vuoti l'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya, come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Arya rispose allora il venerabile figlio di Saradvati. Shariputra, ogni figlio del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in esse nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che cinque aggregati come vuoti in seca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono voi sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono prive di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono prive di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattore di composizione, né coscienza, né occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure il consiglio dell'occhio e così via, per includere il consiglio della mente, il consiglio della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, l'estensione dell'ignoranza viene ad includere vecchiaia e morte, l'estensione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, perché non c'è ottenimenti, il Bodhisattva si basano e dimorano alla perfezione della saggezza. Le loro menti senza più oscurazione e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, Nirvana. Ed affidandosi alla perfezione della saggezza, evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe destarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, emerso da quel Samadhi, elogiò il Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara dicendo: ben detto, ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, perfini Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Saradvati e il Bodhisattva Mahasattva Arya, l'intera assemblea intorno a loro insieme al mondo dei dei uomini, dei semidei Gandharva esultarono e posarono alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye jadam sangye janam la janjo mando dane gyapsu chi nangye chin sangye pe sanam ge andra la benje sangye drova jo sangye jadam sangye janam la janjo mando dane gyapsu chi nangye chin sangye pe sanam ge andra la benje sangye drova jo Sangye jadam sangye janam la ya janjo bandu dane gyapsu chi nangye jin sa ye be sanam ge dro la penje sangye dro ba jo Poi si dovrebbe aggiustare la motivazione, proprio la giusta motivazione. Quindi questi essendo insegnamenti, fanno parte del Mahayana, dovremmo cercare di generare questa motivazione, in modo di essere in sintonia con lo scopo dell'insegnamento, quindi il desiderio, cerchiamo di generare il desiderio di ottenere lo stato di Buddha, quindi questa forma, questo culmine, la forma di mente dove tutte le qualità sono stati consumati, dove tutte ciò che deve abbandonare è stato eliminato, quindi dove la mente diventa una fonte di benessere per se stesso e per gli altri, che questo è lo stato di Buddha. Quindi dovrebbe cercare di generare questo tipo di mente non per sé, non soltanto per sé, ma anche per gli altri, ok? Quindi generare il desiderio dello stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi il modo nel quale questo dovrebbe essere fatto è utilizzando i vari punti, integrando i vari punti che abbiamo coperti insieme. Questo è qualcosa, cioè, facendo questa meditazione panoramica, si dovrebbe puntare i vari outline, i vari titoli dell'insegnamento, per arrivare progressivamente alla generazione di questa mente di bodhicitta. In quel modo si mette l'impronta di tutto il sentiero quando facciamo questa panoramica. Quindi si dovrebbe riflettere per prima questa cosa velocemente, che siamo nei senza ciclica del tempo senza inizio, okay? Che la maggior parte del tempo la passiamo in stati di sofferenza, di grande difficoltà, che sono difficili da concettualizzare, da sondare. Invece oggi siamo molto fortunati perché abbiamo una preziosa rinascita umana, quindi dotata da tutte queste libertà, ricchezze, abbiamo un grande potenziale, e questa preziosa rinascita umana è molto difficile da ottenere. Quindi c'è grande probabilità che non ritroviamo un'altra nella prossima vita. Okay? Quindi si dovrebbe pensare a questo, dovrebbe pensare che comunque questa vita non durerà a lungo e che dovremo morire. Questa è l'unica certezza della nostra vita. Ha una fine, c'è un inizio e c'è una fine, e che a un istante ci avviciniamo di questa fine, e quindi ci è rimasto poco tempo, infatti. E non sappiamo neanche, è incerto, il momento di questa morte è incerto, non sappiamo quando andremo a morire. Può essere stasera, può essere tra una settimana, può essere tra 10 anni, non abbiamo nessuna certezza del momento della nostra morte. E quindi si dovrebbe pensare anche che l'unica cosa che sarà di beneficio quando questo momento arriverà saranno le impronte che abbiamo messo sulla nostra mente, no? Le nostre attività che abbiamo compiuto, le qualità che siamo stati in grado di generare, i miglioramenti che siamo stati in grado di far nascere nella nostra persona, e i difetti che siamo stati in grado di abbandonare. Quindi questa è l'unica cosa, perché tutto il resto lo lasciamo dietro. Quindi si dovrebbe pensare che vedendo lo stato della nostra mente come così pervaso di attaccamento, di avversione, di belligeranza, di orgoglio, di invidia, tutte queste attitudini che sono ricorrenti nella mente di un essere ordinario, okay? Allora c'è grande probabilità che nella vita futura, immediata, sia uno stato di difficoltà, di sofferenza maggiore. Okay? Quindi si dovrebbe riflettere e vedere come ci possiamo proteggere di un'esistenza di sofferenza nella vita futura. E vediamo che il Buddha, il suo insegnamento e la comunità di esseri che hanno attualizzato realizzazione, che hanno la sfera di insegnamento che hanno l'insegnamento come sfera di attività, allora possono effettivamente in certo modo proteggerci di una esperienza di sofferenza. Adeguare il nostro comportamento fisico, verbale, mentale a questo insegnamento. Questa è l'unica, quindi dobbiamo cercare di vedere nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha c'è un programma per eliminare, proteggersi della sofferenza e creare le case di felicità. Okay? Quindi si dovrebbe riflettere, non si dovrebbe quindi fermare all'unico desiderio di essere protetto dalla sofferenza nella vita futura. Dovremmo vedere che quindi cercare di avere una comprensione, di migliorare la nostra comprensione della natura dell'esistenza, e vedere anche che le esistenze dette superiore, come quella umana o come quella nel reame del Deva, del desiderio, eccetera, forma senza forma, sono comunque anche nella natura dell'insoddisfazione, perché cessano a un certo punto, no? Sono proiettati da azioni, da cause, e quando queste cause si esauriscono, allora c'è l'unico modo, l'unica cosa che rimane è di scendere, no? Infatti la vita è come un punto su una ruota, no? Si scende, si sale, si scende, si sale, si scende. Quindi vediamo che non passiamo al di là, anche se otteniamo una rinascita superiore, non passiamo al di là delle sofferenze, diciamo, generale dell'esistenza. Quindi dovrebbe cercare quindi di, la liberazione, perché abbiamo questa capacità, no, di ottenere la liberazione completa di questo ciclo, di non aver più un'esistenza, cioè un corpo e una mente. Nella natura della sofferenza è condizionata dell'azione, ma quindi emergere di questa sfera e sperimentare quindi la cessazione della sofferenza, anche la più sottile, la minima. Questa sarebbe la pacificazione della sofferenza individuale. Ma anche qui non ci dovrebbe fermare e pensare che siamo in esistenza ciclica, quindi abbiamo detto dalla esistenza inizio, che ogni volta che abbiamo preso rinascita, per esempio nello stato umano, abbiamo avuto dei genitori, siamo nati dal grembo materno, e sì, ci chiediamo, ma dove sono tutti questi esseri che ci hanno, sono curati di noi in queste vite passate? Sono gli esseri che incontriamo tutti i giorni, sono quelli intorno a noi che, dovuto al karma, caso e condizione, ci appaiono in modo diverso. Certe volte andiamo d'accordo, certe volte non andiamo d'accordo, ma alla fine sono tutti questi esseri, sono quelli con i quali abbiamo avuto in vite passate delle relazioni molto strette, esattamente come la madre di questa vita. Siamo al centro dei suoi pensieri, delle sue attenzioni. Esattamente tutti gli esseri, quando hanno avuto questa relazione con noi, hanno avuto questo stesso atteggiamento, okay? Quindi si dovrebbe prendere in considerazione questo, capire che abbiamo un grande debito all'incontro di tutti gli esseri senzienti, e quindi è il momento arrivato per noi di ricambiare questa gentilezza. Quindi si dovrebbe generare amore e compassione per cominciare l'incontro degli altri e assumere questa responsabilità di procurare il benessere agli altri, di essere di beneficio agli altri, procurare il benessere, eventualmente diventare anche un protettore degli esseri, proteggerli della sofferenza. Vediamo che nel nostro stato attuale è anche difficile compiere il proprio beneficio, quindi compiere il beneficio degli altri è qualcosa di molto remoto per noi, che è al di là delle nostre capacità. Si dovrebbe quindi guardare intorno e capire che solo quando avremo completamente eliminato i nostri difetti, sviluppato la nostra mente di qualità, allora saremo in grado effettivamente di svolgere il beneficio degli altri. Questo è lo stato di Buddha, okay? Quindi si dovrebbe in quel modo far sorgere questa motivazione, quindi possa io ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi, ma avendo questo in mente, questa motivazione ben chiara in mente, possiamo dopo svolgere le attività della giornata, o in questo caso voi ascoltare e io cercare di dire qualcosa di coerente. Ecco, questo sarebbe il modo di procedere. Ok. Quindi siamo ancora nel quello che riguarda le contemplazioni dell'essere di motivazione iniziale. Stiamo guardando, analizzando che cos'è questa legge di causa effetto, che costituisce l'ultimo insegnamento, l'ultima contemplazione di questo ciclo, di questo ciclo di insegnamento che corrisponde a quest'essere di motivazione iniziale. Che costituisce la pratica di questo essere. Questa è proprio la sua pratica. Quindi lui ha due pratiche: ha il rifugio e adattare a ciò che deve essere adattato, cioè adottare ciò che deve essere adottato in termini di azione di corpo, parole e mente, e eliminare ciò che deve essere eliminato in termini di azione di corpo, parole e mente. Okay? Quindi la settimana scorsa abbiamo parlato un po' di tutto, e abbiamo parlato, in particolare abbiamo presentato le prime quattro caratteristiche del karma, okay? Le quattro caratteristiche generali del karma. Karma significa in sanscrito azione, quindi questa legge di causa effetto. Tutto quello che sperimentiamo, sia in termini di felicità che in termini di benessere, è dovuto alle nostre proprie azioni. non è colpa degli altri, non è colpa di un'entità superiore che ci controlla, ok? Sono le nostre azioni, le nostre potenzialità che abbiamo creato, le nostre proprie allucinazioni, le sperimentiamo cioè nel futuro, ok? Quindi chi si ricorda quali sono le quattro caratteristiche generali del karma? Il karma è certo. Poi? Un andamento esponenziale. Esponenziale. Sì, ne manca due. Ok? Quindi niente si perde. Non si può sperimentare un risultato quando non abbiamo creato le cause, sia nel virtuoso che non virtuoso, quindi sia nel lato di felicità che nel lato di sofferenza. Questo è qualcosa di molto importante che dovete contemplare. Dobbiamo cercare di generare una certezza di queste cose, quindi riflettendo, guardando che c'è anche una causalità esterna, ok? Allora c'è anche una causalità interna, ok? Ovviamente molto più sottile, molto più difficile da realizzare, però comunque si può intuire una certa logica, una certa in queste cose, no? Niente sorge a caso, quindi un risultato. Cerchiamo di esaminare anche la natura dei fenomeni, no? Possiamo classificare i vari fenomeni. In fenomeni abbiamo dei fenomeni permanenti e dei fenomeni impermanenti. No? Un qualcosa esiste, è uno di questi due. O è qualcosa di impermanente o qualcosa di permanente. Qualcosa di impermanente è qualcosa che svolge una funzione, che ha un risultato. Che muta istante dopo istante, quei tavoli, tutte queste cose sono cose impermanenti, ma soprattutto dipendono da cose in condizione, hanno delle cose in condizione, e abbiamo visto nei nostri incontri passati che ci sono delle condizioni sostanziali, o le possiamo chiamare anche congruente, o delle condizioni cooperante. Quindi abbiamo, per esempio, nel caso di una tazza, se una tazza o di un vaso sia d'argillo, avremo una causa congruente o sostanziale che è l'argilla, ok? E delle cause e delle condizioni cooperanti che sono il lavoro del vasaio, eccetera, eccetera, ok? Quindi un'esperienza è un fenomeno impermanente, ok? Una situazione, un'esperienza piacevole, spiacevole, una sensazione piacevole, spiacevole, è un fenomeno impermanente, quindi dipende da causa e condizione, ok? E anche questo abbiamo delle cose e condizioni cooperanti e delle condizioni congruenti o sostanziali, ok? Quindi per far sorgere un'esperienza abbiamo delle condizioni esterne, no? che si aggregano e abbiamo il sorgere di questa esperienza. Però qual è la causa sostanziale dell'esperienza, no? Se abbiamo un'esperienza di felicità, un'esperienza di sofferenza, allora ci deve essere qualcosa di sostanza simile a questa esperienza, ci deve essere qualcosa di sostanza di congruente, la causa che ha creato questa esperienza deve essere anche congruente con il risultato. Quindi dovete riflettere in quel modo e vedere che esattamente quando si mette un seme di un frutto, per esempio un seme di mela, Avremo un albero enorme, quindi da un piccolo seme un albero enorme sorge con un frutto che è in accordo diretto al tipo di seme che abbiamo piantato. Quindi c'è questa causalità esterna e dovete cercare di metterla in parallelo con questa causalità interna, okay? Quindi tramite i vari fenomeni possiamo anche vedere che abbiamo dei fenomeni, possiamo classificarli in fenomeni manifesti, leggermente nascosti e molto nascosti, che i fenomeni manifesti sono quelli che appaiono direttamente alle nostre coscienze sensoriali, per esempio i colori, sagome, colori, suoni, odori, sapori, oggetti tangibili. Tutte queste cose sono dei fenomeni manifesti perché sono manifesti direttamente alle nostre coscienze sensoriali. E poi abbiamo anche dei fenomeni leggermente nascosti. Fenomeni leggermente nascosti sono fenomeni che, almeno nello stato attuale della nostra mente, non possiamo sperimentare direttamente. Quindi le possiamo comprendere, le possiamo realizzare tramite l'applicazione di segni validi o di ragione. Per esempio, la vacuità, la natura ultima dei fenomeni è un fenomeno leggermente nascosto che adesso non possiamo realizzare direttamente perché non abbiamo nessuna concentrazione e la nostra saggezza è ancora in un stato molto embrionario. Però speriamo che nel tempo un giorno ce la faremo. Quindi abbiamo la vacuità la possiamo comprendere tramite l'analisi e l'utilizzo di ragioni valide. Tramite l'utilizzo di ragioni valide possiamo comprendere qual è il modo di esistere dei fenomeni. Non è qualcosa di mistico assolutamente, è qualcosa di logico. E abbiamo anche l'impermanenza sottile dei fenomeni, il fatto che i fenomeni sono in un stato di disintegrazione a un livello atomico, molecolare, sono in stato di disintegrazione continuo, di produzione. Questo lo possiamo anche realizzare tramite l'analisi, cioè il ragionamento. Quindi questo si chiamano fenomeni leggermente nascosti. E poi abbiamo i fenomeni molto nascosti. Fenomeni molto nascosti sono, per esempio, la legge di causa-effetto. Gli aspetti sottili della legge di causa-effetto sono molto difficili per noi esseri ordinari da capire e da realizzare. E anche per questi grandi esseri, questi bodhisattva, eccetera, sui terreni, anche se riescono a percepire gli aspetti grossolani della legge di causa-effetto, come per esempio della generosità sorge il benessere materiale, che dal proteggere la vita sorge alla salute, queste cose, lì è molto difficile di realizzare gli aspetti molto sottili della legge di causa-effetto. Quindi questi aspetti della legge di causa-effetto sottile appartengono solo alla sfera della mente onnisciente, solo alla sfera della mente del Buddha, che ha eliminato i due tipi di oscurazione. Due tipi di oscurazione. Quindi tramite il sentiero, lungo il sentiero abbiamo due oggetti d'abbandono, ok? Due oggetti d'abbandono principale. Il primo viene considerato, si chiamano le oscurazioni afflittive, ok? Che impediscono l'ottenimento della liberazione, che sono le afflizioni mentali come l'ignoranza, l'attaccamento, l'avversione, tutte queste cose. Queste impediscono la liberazione, nirvana. E dopo ci sono anche le oscurazioni cognitive, che sono le impronte lasciate sulla mente da questo primo livello di oscurazione. Quindi il Buddha elimina anche questo secondo oggetto di abbandono. Comunque, ritorniamo al karma. Rispetto a quello che abbiamo visto insieme, ci sono delle domande? Non so perché vi faccio questa domanda ogni settimana. Vai. A me quella cosa di del karma mi ha rovinato tutta la settimana. Mi dispiace. No, ma allora, cioè, il karma è certo e una cosa esponenziale. Ci riflettevo in qualche modo, perché io faccio pensieri piccoli, più piccoli. Parto dagli esempi pratici perché è più semplice. Io lavoro in un posto che è un ambulatorio, quindi in questo ambulatorio lunedì, subito dopo domenica, è stato invaso dalle formiche. Quindi un ambulatorio con le formiche è segno di scarsa igiene. Questo ha generato dei sentimenti di avversione nei confronti delle formiche. Quindi, però, mi veniva in mente che in fondo, se io le avessi in qualche modo uccise, compivo quella che potevo definire un'azione non virtuosa. Però nelle persone che venivano sicuramente questo avrebbe generato un qualche sentimento di avversione. Morale, ho sparso la polvere contro le formiche in ambulatorio. Le formiche non gli ha fatto assolutamente niente, si sono spostate. Ho rimesso la polvere, non è morta nemmeno una. e si sono continuate a spostare. Praticamente c'era la scrivania e la formica che attraversava la scrivania, le persone che erano davanti, e questo generava alcune reazioni. Chi era indifferente, cioè io facevo l'indifferente, chi era davanti magari era indifferente ma vedevo che viveva, oppure c'era qualcuno che allungava la mano e la schiacciava e io pensavo meno male l'ha fatto lui. Però il senso di sollievo che provavo era l'equivalente se esatto. Avessi ammazzata io. Esatto. Non andava bene. Quindi, aspetta, in breve. Si è lunga la storia, una settimana è durata. Allora c'era un altro che invece mi ha esposto un'altra teoria che schiaccia solo gli insetti che gli danno noia. Per cui le zanzare si schiacciano, le formiche no, perché non danno fastidio. È tutto relativo. Comunque, lasciamo stare, c'erano anche le zanzare, sempre nello stesso ambulatorio. Samsara è difficile. Davvero, ma veramente. E quindi avevo questo stick con l'ammoniaca che neutralizzava i pinze della zanzara, 4-5 pinze per zanzara, fino a che non mi sono trovata, ero così, c'avevo una zanzara qui. Io guardavo la zanzara e facevo. Per me cos'è meglio, ammazzarla o farmi pungere? Ho detto, ma forse è meglio che mi faccia pungere. Pensiero, sarà un masochista. Altro pensiero, e se fosse una zanzara anofare che mi sta trasmettendo la malaria? Quindi già, alla fine la domanda qual è? Aspetta, non ho risposto, mi sono fatta pungere. Dopodiché ho percepito che quando mi pungevano le zanzare non mi davano più tanto fastidio. Cioè, era come se... io sentivo che mi pungevano, però il fastidio che mi davano prima si era molto affievolito. Perché ho detto, ma allora forse va proprio cambiato l'atteggiamento, anche se mi puncia, cioè perché questo è riferito a zanzare e formiche, però potrebbe essere riferito a lei, perché magari fa qualcosa che mi irrita. Per cui forse è questo l'atteggiamento, cioè nel senso, se io lei posso essere indifferente, la posso schiacciare come una formica, oppure al limite la potrei allontanare, potrei provare ad allontanare, se non ce la faccio potrei allontanare. Cerco di aiutarti. Quindi qui il problema che sempre che hai è che cambiando l'atteggiamento, cambiando la percezione, il fastidio c'è o non c'è, giusto? Questo. Quindi è chiaro che i fenomeni, le situazioni che ci circondano, le situazioni, lo sguardo che abbiamo su queste abbiamo, ci sono dei problemi nella vita di tutti i giorni, però il modo di relazionare, il modo in quale la mente si relaziona con questa situazione può moltiplicare la difficoltà o invece farla diventare minima. Quindi se hai deciso che le formiche e le zanzare ti danno fastidio, allora ti daranno fastidio e ti renderanno la vita molto difficile. Se invece decidi che non è più un problema, allora le cose non diventano un problema, perché niente è un problema di per sé, nel senso che niente è dotato di caratteristiche, niente spiacevole intrinsecamente, ok? Quindi il modo nel quale tu guardi queste cose, ciò che vai a sovraimporre su queste situazioni, aumentano il disagio o all'opposto lo sollievano, come si dice? Alleviano, ok. Quindi questo è uno. Secondo, è ripartito su qualcosa, pensavo che poi sei andato su un'altra direzione, che comunque sei nel contesto di un laboratorio, quindi ci sono insetti, eccetera, è giusto che non è opportuno che ci siano, non so, nei laboratori ci devono essere certa igiena, ok? Quindi è giusto che si sia invaso da formiche diventa difficile di lavorare in queste condizioni. Nel samsara comunque è quasi impossibile non svolgere delle azioni non virtuose a un livello o a un altro, perché questa è la condizione nella quale siamo. Adesso, io, per esempio, cioè, anche quando Sua Santità, no, va a insegnare nei grandi monasteri, che arrivano tutti questi tibetani, eccetera, monaci, eccetera, cioè, prima che Sua Santità entra nella sala di meditazione, sono tutti questi cuscini, cioè, anche, cioè, sono lì con una cosa, come si chiama, per uccidere i vari parassiti, eccetera, eccetera, eccetera. Difficile. Poi tutto dipende dal livello al quale, dal nostro livello di mente, dal livello di tolleranza che abbiamo, ok? Dobbiamo fare le cose progredire passo a passo, ok? Quando sei confrontata a quel tipo di situazione, no? E che devi comunque cercare, devi per prima cercare di trovare un modo di non far entrare questi vari insetti, io per esempio, cioè, ogni estate in casette di legno e lì c'è un'invasione, quindi ho trovato che il talco non sopportano il talco, quindi lo mette davanti all'entrata, non è un insetticidio, non uccide, però non fanno marci indietro e così non entrano. Quindi si deve sempre trovare, altrimenti le formiche sono attratte dal cibo, quindi se ci sono dei briccioli sicuramente le avrete, quindi cercate di mantenere il posto pulito e non avrete questi problemi. Però bisogna fare quello che deve essere fatto in certe situazioni. L'importante dopo è l'importante è la motivazione con la quale l'abbiamo. Per esempio, si generi dell'avversione, o si lo fai in un'attitudine con un'attitudine autogratificante, egoista, allora automaticamente le cose è molto più pesante. Comunque, nel caso di uccidere c'è l'azione. Dopo, il modo nel quale tu puoi rendere questa azione più pesante o meno è la tua attitudine mentale. Ti dico che il peggio è quando perdi la pazienza e lo fai con avversione, ok? O quando fai un'azione non virtuosa e motivata dal forte attaccamento alla propria persona o al proprio benessere. Allora automaticamente queste azioni diventano molto più pesanti. D'altro canto, quindi potrai anche dopo alleviare il karma compiuto con l'utilizzo dei quattro poteri opponenti e poi fare anche qualcosa per queste formiche o questi insetti o questi esseri che hai danneggiato. Quindi questo sono recitazioni di mantra che possono essere fatte per essere di beneficio anche a questi esseri, okay? Quindi sono varie cose, però non entriamo troppo nel dettaglio, perché altrimenti ci porta via il tempo, ok? Quindi andiamo avanti. Abbiamo visto le quattro caratteristiche del Dharma, del karma, e adesso andiamo un po' nel dettaglio a vedere la varietà del karma. Okay, varietà del karma. Quindi abbiamo tre tipi di azione: abbiamo le azioni verbali, le azioni fisiche e le azioni verbali fisiche. Mentale, ok? E in termini di azioni, un'azione può essere virtuosa, non virtuosa o inamovibile, ok? L'inamovibile è un tipo di karma virtuoso che è incluso nello sviluppo di una concentrazione, ok? Quindi il karma virtuoso e non virtuoso è incerto rispetto a dove matura. Nel senso che certi karma non virtuoso maturano nei reami superiori e certi karma virtuose maturano anche nei reami non virtuosi, ok? In termini di karma completante. E invece il karma inamovibile siete assicurato che matura in un livello specifico. Allora mi spiego. Abbiamo il rama del desiderio, lo conosciamo, è quello nel quale siamo. Poi c'è il rama della forma e il rama del senza forma. E sono divisi, il rama della forma è diviso in quattro, ok? Quattro suddivisi in tre, quindi abbiamo 12 livelli che corrispondono, per esempio prendiamo quattro livelli, che corrispondono a quattro livelli di concentrazione, ok? E poi abbiamo il senza forma, che è diviso in quattro, che corrispondono a degli assorbimenti particolari. Quindi, come si fa per andare in questi posti? Quando su il supporto di un essere umano, per esempio, mi addestro nell'etica, nella concentrazione, eccetera, e riesco a attualizzare un certo tipo di assorbimento meditativo, di stabilizzazione meditativa, che ha la caratteristica, che ha delle caratteristiche particolari, per esempio le caratteristiche del primo livello di concentrazione. Poi abbiamo anche un secondo livello di concentrazione, un terzo, un quarto. Quando, quindi, ho sviluppato questa concentrazione, quando muoio, quando questo si chiama una concentrazione, una stabilizzazione meditativa causale, quando muoio, questo karma creato mi fa prendere rinascita nello stesso livello di concentrazione che ho sviluppato in questa sfera, okay? E questo diventa una concentrazione, un assorbimento, una stabilizzazione meditativa risultante. Questo è il karma inamovibile. È inamovibile perché matura necessariamente nel livello sviluppato, okay? E si dimorano quindi molto tempo in questi stati. Ok, quindi abbiamo visto, quindi abbiamo tre tipi di karma: virtuoso, non virtuoso e inamovibile. E il karma lo possiamo compiere tramite il corpo, la parola e la mente. Queste sono, si chiamano le porte, ok? Vengono anche chiamate porte. Quindi il Buddha ha presentato 10 sentieri di azioni, ok? 10 sentieri. Non è che le azioni non virtuose si limitano a 10, però sono le principali, perché tutti gli altri sono comunque ramificazione di questi 10, ok? Sono 10 perché sono le più ovvie e le più grossolane, eh? Quindi il Buddha ha insegnato anche che quando queste 10 vengono bloccati, okay, vengono bloccati, allora la persona automaticamente adotta il comportamento detto virtuoso e chiude la porta alla sofferenza futura, sia in termini di rinascita che in termini di esperienza, okay? Quindi i sentieri non virtuosi vengono riassunti in questi 10. Quindi l'opposto, abbiamo quindi 10 sentieri di azioni non virtuose, e l'opposto è automaticamente il sentiero virtuoso, okay? Quindi la pratica di questi 10 azioni, di questi 10 virtù, chiamiamole 10 virtù, è indispensabile alla base dei 3 veicoli, ma anche alla base dei 3 scopi. Quindi i 3 veicoli sono i tre tipi, le tre vie, o i tre tipologie di praticante. Abbiamo tre tipologie di praticante: abbiamo gli uditori, i realizzatori solitari e i bodhisattva. Quindi questi tre tipi di praticante hanno alla base l'abbandono delle 10 azioni non virtuose. Questa è la pratica minima che possiamo avere. Senza questo non esiste la pratica, è impossibile presentarsi come essendo un praticante, okay? È impossibile. Quindi adesso entriamo queste dieci azioni sono quindi ne abbiamo quattro della parola, no, scusate, tre del corpo, facciamo così, tre del corpo, quattro della parola e tre della mente. Quindi quelle del corpo e della mente sono classificate dalla più pesante alla più leggera, e invece quelli della mente sono classificati dalla più leggera alla più pesante, okay? Rispettivamente le azioni del corpo sono più pesanti che l'azione della parola, che sono più pesanti che l'azione della mente in termini di retribuzione, okay? Quindi queste tre azioni della parola, del corpo, sono l'uccidere, che è la più pesante, poi la meno pesante è il rubare, poi dopo abbiamo la sessualità scorretta, okay? E adesso entriamo in quella della parola, quindi la più pesante è il mentire, dopo abbiamo la parola che divide le persone, dopo abbiamo le parole che feriscono, e dopo abbiamo il parlare avanvera, e poi abbiamo quelli della mente. Allora abbiamo la bramosia, la malevolenza e le visioni errate. Okay? Allora, come vi dicevo l'altro giorno, queste azioni sono non virtuose non perché ce n'è uno che l'ha deciso, okay? Non perché è dal punto morale, quindi non c'entra niente con il punto morale, con l'aspetto morale della cosa, non c'entra niente perché ce n'è uno che l'ha dichiarato, non è perché c'è un'autorità superiore che decide che questo siete miei seguaci, quindi dovete comportarvi in quel modo, altrimenti non vi accetto. No, sono stati cioè il Buddha nella sua comprensione della percezione della realtà e del meccanismo delle esperienze, motivato da compassione per gli esseri, per fare in modo che sperimentano sempre più felicità e sempre meno sofferenza, ha presentato quali sono le cause maggiori della sofferenza, okay? E quindi ha presentato questi 10 azioni. Quindi sono dette virtuose e non virtuose solo dal punto di vista del risultato che procurano, il risultato che creano. Quindi è virtù ciò che dimora in una classe di maturazione di felicità, di piacere, di benessere, è non virtuoso ciò che dimora in una classe di maturazione spiacevole, di sofferenza, di infelicità. Punto. Allora adesso un'azione, vedrete che questo entriamo in un aspetto un po' tecnico e complesso, perché comunque è qualcosa sul quale dobbiamo passare un po' di tempo. Diciamo che in generale un'azione per essere completa, quindi più l'azione è completa con tutti i vari rami, più è pesante, okay? Quindi un'azione completa ha quattro rami, no? C'è un rame della base, c'è un rame dell'attitudine, del compimento e della conclusione, o quando sì, della conclusione, okay? Quindi abbiamo una base, un'attitudine, il compimento, certe volte vedete che è anche chiamato preparazione, compimento, e la conclusione. Okay? Questo per ogni azione, sia fisico, verbale, mentale, che sia negativo o positiva. Quindi adesso entreremo nel disseccare, si dice così, disseccare? Spezzare? Sezionare ogni di queste azioni, di queste 10 azioni non virtuose, per cercare di capire qual è l'entità e in che modo possiamo evitare di compiere completamente, ma anche minimamente, queste variazioni. Quindi per quello che conosce, le azioni non virtuose non sono così pesanti. Per quello che non conosce, sono molto pesanti. Nel senso che è come se c'è qualcosa di molto caldo, è stato sul gas per molto tempo, e uno non lo sa che è caldo, quando lo prende si fa molto più male che quello che lo prende sapendo che è già caldo e quindi che ci mette cura, no? O è come se per esempio abbiamo del ferro, no? Se abbiamo una palla di ferro, si mette nell'acqua, boom, va nel fondo. Però se questa massa di ferro, no, viene fassonata, si dice fassonata? No, viene dato una forma particolare, può anche galleggiare. Okay? Quindi per quello che conosce, ecco perché l'ignoranza è la cosa peggiore, no? Perché ci facciamo sempre più male con l'ignoranza. Ok, quindi prenderemo questi 10 azioni uno per uno, okay? Vedremo quali sono i vari rami che la portano al completamento, e cercherò di presentarvi anche simultaneamente, uno dopo l'altro, gli effetti di questa azione, così è meno frustrante. Okay. Allora, prendiamo l'azione di uccidere. Allora, l'uccidere è la base per avere un'azione completa, la base è qualcun altro. Ovviamente questo non è molto difficile, deve essere qualcun altro. Okay? Quindi un essere senziente altro che se stesso. Questo significa che nel caso del suicidio, cose del genere, è anche un'azione di uccidere, ma l'azione non è completa. Quindi la base, questo si chiama la base, deve essere un altro essere che se stesso. Okay? Allora, altro essere senziente significa, allora nell'Abhidharma viene detto ciò che un essere senziente o che lo sta diventando. Quindi questo significa che dal momento del concepimento nel grembo materno, nel contesto dell'insegnamento, questo viene considerato come un essere senziente, perché la mente è già associato alla materia. Okay? Quindi dal momento del concepimento, questo viene considerato come essere senziente. Okay. Allora, poi l'attitudine, il secondo ramo è un'attitudine, e l'attitudine è suddiviso in tre. Okay? Quindi abbiamo la percezione, abbiamo l'afflizione e abbiamo la motivazione. Insisto su questo aspetto della motivazione perché è l'aspetto il più importante nel karma, ciò che determina veramente se l'azione viene accumulata, non soltanto compiuta, ma accumulata in termini di retribuzione, è ciò che anche determina il peso di questa azione e la motivazione. Quindi nel caso di uccidere, l'azione è completa quando abbiamo tutti i rami e in particolare quando c'è la motivazione di uccidere. Perché si può anche uccidere senza avere questa motivazione, allora l'azione non è completa. Viene fatta, si dice che l'azione è fatta, ma non è accumulata. Ok, allora, nel caso della percezione, questo significa che se decido, per esempio, di uccidere Paolo, qui presente, ok? Allora mi metto nel buio, so che Paolo esce la sera, fa questo percorso e l'aspetto nel buio, ok? E quando sento che qualcosa arriva vicino a me, gli salto addosso, gli do una coltellata, però mi rendo conto che non è Paolo, è un altro. A quel momento l'azione di uccidere non è completa, ok? Questo non significa che non c'è una negatività che viene accumulata e che verrà sperimentata. Però non abbiamo il ramo della percezione che viene completa, o la discriminazione non è completo. Okay? Quindi vedete che o si decide di rubare qualcosa, per esempio voglio rubare qualcosa a Paolo, però invece rubo qualcosa che appartiene a qualcun altro, anche qui l'azione non è completa. O si mi introduco in una casa di notte e decido di rubare, non so, qualcosa di particolare, però parto con qualcos'altro, allora l'azione non è completa. Quindi ci sono queste varie sottigliezze. La percezione deve essere quindi accurata e priva di errore. L'afflizione è una dei tre, nel senso che si può uccidere motivati dall'odio, okay? Dall'avversione, dall'attaccamento o dall'ignoranza. Okay? Allora, uccidere motivato dall'odio è abbastanza facile. Conosciamo l'uccidere motivato dall'odio in caso di guerre, eccetera. Motivato dall'attaccamento, per esempio, quando andiamo a caccia. Andare a caccia è un esempio di uccidere motivato dall'attaccamento, perché attaccamento per l'attività, ma o per il cibo che potrà essere sperimentato dopo, o per ignoranza, semplicemente si uccide per ignoranza quando, non so, si vedono dei insetti e così macinalmente, si dice macinalmente? No, così per automatismo, senza essere sotto l'avversione, sotto l'attaccamento, si uccidono vari insetti, eccetera. Quindi è chiaro che l'uccisione dall'ignoranza è meno pesante che l'uccisione dall'attaccamento, che è meno pesante l'uccisione motivata dall'odio. Anche qui l'attività mentale è predominante. Il compimento o la preparazione, quindi non c'è nessuna differenza se lo facciamo noi o chiediamo a qualcuno di uccidere per noi. Non c'è nessuna differenza in relazione all'accumulare il karma negativo. Qualsiasi anche il modo col quale uccidiamo, sia con arme, con veleno, o con magia nera, non cambia niente, non cambia niente. Okay. Per esempio, nel caso delle persone che sono nell'esercito, quindi abbiamo dei generali che comandano migliaia di soldati, il soldato accumula il karma negativo di uccidere quelli, quelli che uccide, ma in generale si prende il karma negativo di tutti quelli al quale dà l'ordine di uccidere. Quindi diventa molto pesante la cosa, okay? Molto pesante. Okay? E anche nel caso di rallegrarsi, quando per esempio siete davanti alla televisione e sentito per esempio che Bin Laden è stato ucciso, sì, vi rallegrate di questa cosa, accumulate il karma di uccidere, una porzione del karma di uccidere. Okay? Quindi fate molto attento alla vostra attitudine mentale confrontata a quel tipo di attività. Quindi nello stesso modo, sì, vi rallegrate quando qualcosa di molto virtuoso viene compiuto, quando azioni di generosità o qualcosa, qualcuno è stato salvato la vita, eccetera, allora accumulate anche una porzione di questo karma virtuoso. Infatti viene detto che il modo il più facile e il più veloce per accumulare del karma virtuoso è semplicemente rallegrarsi delle attività virtuose degli altri. Potete farlo anche sdraiato, ok? Nel buio, rallegratevi delle attività degli altri e così accumulate grande quantità di meriti. E si dicono, mio maestro mi diceva sempre che anche alla fine della giornata, no, uno dovrebbe ripassare le azioni che ha fatto, gli atteggiamenti che ha avuto nella giornata, e quindi cerchiamo di purificare quello che non va, e invece rallegrarsi delle proprie azioni virtuose, perché in questo contesto aumentano il potere di queste virtù, ma anche rallegrarsi di quelle degli altri, ma soprattutto rallegrarsi delle attività virtuose dei grandi bodhisattva o dei buddha, no? Perché loro hanno delle capacità straordinarie, per esempio attività, cioè la sfera delle attività di corpo, parole, mente del Dalai Lama sono cose straordinarie, no? Quindi dovute alla loro al potere della loro motivazione, delle loro qualità. Quindi rallegrarsi delle virtù di questi grandi esseri è un modo molto facile per accumulare virtù facilmente. Okay? È il culmine. Quindi, per esempio, nel caso della preparazione o dell'azione, ogni passo, per esempio un'azione di uccidere, un'azione di rubare, no? La potete anche pianificare. Quindi ogni volta che state pianificando state accumulando del karma. Ogni passo che vi ravvicina del posto dove andate a fare le azioni non virtuose, accumulate del karma non virtuoso automaticamente, perché questi sono rami, entrano nella preparazione dell'azione. Qui vedete che, per esempio, nel caso delle persone che fanno azioni di terrorismo, no? Queste cose vengono pianificate anche per anni. Quindi immaginate l'accumulazione pesante, non virtuosa, che viene fatta, no? Perché queste cose vengono pianificate per giorni, per mesi, anni. Quindi questa sfera mentale diventa molto pesante alla fine il karma. Poi quando c'è l'azione, quindi e alla fine abbiamo quindi il culmine. Il culmine quindi è quando più o meno è la conclusione, no? Quando l'azione l'istante dopo che l'azione viene compiuta. Quando per esempio la persona muore, allora la persona muore, a quel momento l'azione è completa. Se la persona non muore, la persona non è completa, l'azione non è completa. O sì, nel caso di una specie di lotta, muoio prima dell'altro, l'azione non è completa, perché non c'è questa conclusione che è questo declic mentale, che è in certo modo il rallegrarsi dell'azione che è stata compiuta. Quindi nel caso che avveleno qualcuno, però è un veleno che mette, non so, mesi o settimane per dare effetto, e muoio prima, ho tutti gli altri rami, però non ho il ramo della conclusione, quindi l'azione non è completa. Non significa che non c'è karma negativo non accumulato, che non ci sarà esperienza di sofferenza, ma non è completo. Quindi la persona deve morire prima di quello che compie l'azione. Quindi sì, vogliamo interessarci al risultato dell'azione di uccidere. Abbiamo visto, no, l'azione di uccidere, un'azione completa ha quattro risultati. Ha un effetto proiettante, si chiama l'effetto proiettante o l'effetto di fruizione, il karma proiettante. Allora, un'azione non virtuosa, un'azione proietta cinque aggregati. Cinque aggregati sono i costituenti fisico-psichici di un essere senziente. Quindi abbiamo l'aggregato della forma, l'aggregato delle sensazioni, discriminazione, fattore di composizione e coscienze. Quindi possiamo parlare di due, l'aggregato della forma e l'aggregato della mente, cioè corpo e mente, in breve. Quindi un essere umano ha un corpo particolare e una mente particolare che è il risultato delle sue azioni. Un animale, sia cane, gatto, eccetera, ha un corpo particolare e una forma mentis particolare condizionata dal suo stato di essere, okay? Eccetera, eccetera. Quindi un'azione pesante di uccidere è una rinascita, viene detto, nei stati di grande sofferenza, infernali. Okay? Un'azione media di uccidere è come i preta, un'azione leggera di uccidere è come animale. Questo è come viene presentata. Questo è il karma, quindi, proiettante. Dopo abbiamo l'esperienza simile alla casa, è divisa in due in termini di tendenza. Per esempio, l'azione di uccidere lascia una predisposizione per continuare a uccidere nel futuro, no? Si stabilisce questa predisposizione, è associata anche un deliziarsi nell'uccidere. Diventa le cose con le quali abbiamo familiarità, ci piace a farle, okay? Quindi, e l'altro è un'esperienza simile alla causa. Quindi nel caso di uccidere, allora dopo prendiamo il caso di un'azione quindi completa che ha anche un karma proiettante, quindi questa azione ci fa prendere rinascita nei reami di sofferenza, si sperimentano le difficoltà e le sofferenze che categorizzano questi reami, e quando si ritorna dopo, non si sa quando, nella sfera umana, questo karma non è completamente estinto, ha ancora dell'energia che deve essere sperimentato. Questo si chiama l'esperienza simile alla causa. Quindi l'uccidere, quando ritorniamo nella sfera umana, abbiamo una vita breve, con molte malattie, o possiamo avere una vita un po' più lunga con molte malattie. Molte malattie, quindi sperimentiamo anche difficoltà in vari aspetti della vita, okay? Vari aspetti. E poi abbiamo, se guardo perché ho varie tabelle, sì, principalmente è una vita con molte malattie. E come effetto ambientale, quindi si ritrova in un posto violente, dove ci sono molte difficoltà, tipo guerre, insicurezza, ok? Comunque, l'ambiente e le cose che ci circondano sono ostile, pericolosi, sconfortevole anche, tutto è sconfortevole. Il cibo, le bevande e le medicine e anche le altre necessità sono difficili da ottenere. E una volta che vengono ottenute, sono di poco beneficio. Non hanno un grande potere, per esempio il potere di curarci o il potere di nutrirci. Tutto è indebolito. Abbiamo anche difficoltà a digerire tutte queste varie sostanze che ingeriamo. Quindi questi sono gli effetti principali che esistono nell'ambiente dovuta all'azione di uccidere. L'azione di rubare, ok? Anche qui l'azione di rubare è la stessa cosa, ha una base, ok? C'è un'attitudine, c'è un compimento e c'è una conclusione. Quindi la base deve essere qualcosa che non ci appartiene. L'attitudine è anche questa, la discriminazione, quindi dobbiamo avere una discriminazione corretta rispetto alla base. Dobbiamo avere un'afflizione mentale, Ok, quindi l'afflizione mentale può essere l'avversione, l'attaccamento, l'ignoranza, e dobbiamo avere una motivazione. La motivazione è il desiderio che qualcosa che non ci appartiene, o la motivazione di qualcosa, di prendere qualcosa che non si appartiene senza ottenerne prima l'autorizzazione. Quindi prendere ciò che non è stato dato, in breve. Ok? Quindi anche qui rispetto all'attitudine, se lo facciamo noi e se lo facciamo fare dagli altri, stessa cosa, non cambia niente. Il modo nel quale viene fatto, allora, sia per forza che per, come si dice, quando si utilizza l'intelligenza, no, per ingannare le persone, eccetera, non cambia niente, è la stessa cosa, è sempre un'azione di uccidere. Ingannare le persone, nel senso utilizzare la fiducia che hanno, ok, tutte queste utilizzare dei mezzi storti, cioè contornare la cosa, ok, non c'è differenza. Quindi è la culminazione o la conclusione, è quando effettivamente si riesce a rimuovere, a cambiare di posto un certo oggetto, non necessariamente perché ci sono degli oggetti che non possiamo cambiare di posto, per esempio sia un campo, una casa, diventa difficile. Principalmente deve essere il pensiero che adesso è nostro. Adesso è nostro. Quando avete generato quel pensiero, l'azione è completa. Il risultato dell'azione di rubare, allora anche qui abbiamo il risultato di piena maturazione, cioè il risultato di il karma proiettante, l'effetto proiettante, quindi anche qui medio, cioè leggero, medio e pesante, che corrisponde a tre tipi di rinascita. Abbiamo la tendenza simile alla causa e l'esperienza simile alla causa, e che quando si ritorna nella sfera umana siamo privi di risorse e di ricchezze, ok? Ciò che guadagniamo con difficoltà viene rubato, ci viene rubato, o le persone ce le chiedono in prestito, non ci le danno mai indietro, o viene perso. Questo è il risultato del rubare. Siamo privi di proprietà. E quello che abbiamo, il poco che abbiamo, lo dobbiamo anche condividere, quindi non ne possiamo neanche godere pienamente. Okay? E l'effetto ambientale si prende rinascita in posti sterile, dove niente cresce. Okay? Non c'è frutta, o ciò che cresce viene distrutto dal clima, dai temporali, eccetera. E tutte le nostre imprese falliscono. Falliscono, nel senso che vogliamo fare, non so, metter su un commercio o qualcosa, e si fallisce. Questo è il risultato dell'azione di aver rubare. Quindi sono posti dove c'è come si chiamano i momenti dove non c'è più acqua, siccità, dove si trovano siccità, o l'opposto, inondazioni, ok? Tutto questo che distrugge tutto, che fa sperimentare difficoltà, tutto questo è il risultato dell'azione di aver rubato. Anche certe volte capita in Francia, ogni volta è una grande cosa in TV, quando nella regione dove fanno il vino, a Bordeaux, a settembre, tutta quest'uva è distrutta dalla cosa dal ghiaccio, no, che cade. Okay. Risultato dell'azione di uccidere, di rubare. Ok. E poi abbiamo la terza del corpo, l'attività sessuale scorretta. E qui nei testi vanno in molti dettagli per questo. Quindi io non so se voi siete pronti per tutti questi dettagli, un pochino comunque le darò. Ok? Allora, anche qui abbiamo la base, l'attitudine, il compiere l'azione e la conclusione. E c'è molti dettagli rispetto alla base. Ok? Quindi in generale, non andiamo sempre troppo nei dettagli, ok? La base è in termini di persona, quindi persone inappropriate. Le persone inappropriate sono per esempio la moglie o il ragazzo o la ragazza degli altri, okay? O i propri familiari, okay? O le persone che sono sotto la protezione dei genitori, che okay? Questo significa quindi a quelli che non sono a un'età, come si chiama? Minori, eccetera, okay? quelli che portano i voti di un giorno, che hanno preso i precetti Mahayana, per esempio, di 24 ore, persone che hanno i voti di liberazione individuale, cioè i voti di liberazione individuale, quindi monaci, monache, eccetera, okay? Persone dello stesso sesso, okay? Viene considerato come c'è un risultato nelle vite future, c'è un risultato spiacevole rispetto a questo. Poi viene anche detto andare con le come si chiama? Prostitute, ma sì, qualcun altro l'ha pagato, nel senso che andare con le prostitute non sarebbe un'azione non virtuosa, sì, pagate voi, però sì, qualcun altro paga e vi inserite, vi presentate come quello che ha pagato, allora diventa un'azione non virtuosa. Avete capito la sottigliezza? Comunque, vabbè, andiamo avanti. Okay? Se volete dei dettagli, andate a leggere nell'Amrim Chenmo, c'è una sezione molto, molto estesa su questo. Okay? Poi, quindi, siamo sempre nella base, poi ci sarebbe quindi le parti del corpo inappropriate. Quindi le parti del corpo inappropriate sono altre che gli organi sessuali. Ok? Quindi sono considerate come attività sessuale scorretta. Okay? Poi abbiamo i posti inappropriati. Andiamo nei dettagli. Posti inappropriati. Posti inappropriati sarebbe vicino dove ci sono i propri genitori, okay? Vicino ai stupa, okay? I posti dove l'insegnamento viene dato, dove i monaci residono. Tutti questi sono posti inappropriati. Okay? I posti dove può essere dove il partner può sperimentare anche dolore, quindi se il posto non è confortevole, okay. Poi ci sono anche quindi dove cioè non menziono neanche a vicinità vicina nella vicinanza dei propri maestri, okay. Poi abbiamo i momenti inappropriati. Momenti inappropriati sono durante la mestruazione, ok? Quando la gravidanza è molto avanzata, perché è sconfortevole per il bambino, ok? Al momento dove la madre sta dando il seno, ok? Quando per esempio nel caso della donna è ammalata, okay? Quando non è desiderato dall'altro, okay? E poi viene detto anche in una quantità eccessiva. Quantità eccessiva, potete stare tranquilli, perché va fino a 5 volte per notte, quindi ti lascio un po' di margine, okay? Allora, in termini di percezione, la percezione deve essere necessariamente accurata, all'eccezione della persona che ha dei voti. Per esempio, se io ho una persona dei voti, di 24 ore o per la vita, il fatto che compie attività sessuale non cambia niente, se è con la persona che voleva o con un'altra, non cambia niente. Okay? Però nel caso di qualcuno che non ha questi voti, per avere l'azione completa ci deve essere la percezione corretta, nel senso che nel buio vi sbagliate di partner, allora l'azione non è completa. Ok, ci sono questi dettagli. Ok, quindi anche qui in termini di attitudine troviamo l'afflizione. L'afflizione è una dei tre. Ok, la motivazione, quindi il desiderio, quindi di entrare in intercourse, non so come si dice in italiano. Unione. Ok. Ok, e il culmine dell'azione è quando i due generi entrano in contatto. Ok, il culmine. Non necessariamente deve andare al climax. Okay. E quindi vediamo un po' i risultati di queste azioni. Quindi vedete che io vi consiglio, quelli che sono interessati, di andare nell'Amrim Shenmo, che è tradotto in italiano, e di andare a leggere questi dettagli, eccetera, perché adesso ho fatto un'enumerazione, però se siete interessati andate a vedere i dettagli. Allora, i risultati di questa attività sessuale scorretta, abbiamo quindi un karma proiettante, poi quando si ritorna nella sfera umana abbiamo l'esperienza simile alla casa, la tendenza simile alla casa. In termini di esperienza simile alla casa abbiamo inabilità di mantenere delle relazioni, okay? Di mantenere una relazione. Saremo velocemente separati dal proprio partner, ma anche dagli amici, dai familiari, sperimentiamo la separazione, okay? Ma anche le persone che lavorano con voi, vi piace lavorare con qualcuno, anche che questa persona è il vostro stipendiato, dici così, stipendiato, questa persona trova qualcosa di meglio, se ne va, o litigate, se ne va, comunque uno sperimenta solitudine. Questo è il risultato dell'esperienza simile alla causa. Vediamo qui. Se uno non è in grado di mantenere, cioè di tenere il proprio marito, propria moglie, i servitori o gli amici, i seguaci, eccetera. Allora, a livello ambientale, l'ambiente com'è? L'ambiente è un ambiente molto sporco in generale, squalido. Si vive in posti squalidi, dove c'è sofferenza, c'è miseria, ok? Sconfortevole, molto sconfortevole, dove c'è fango, molto fango. Molto sporco e fango, odore molto cattive. Quindi il posto nel quale si vive è anche causa di malattie dovuta al fatto che ci siano tutte queste sporcizie, eccetera, che l'ambiente sia squalido. Ok, adesso passiamo, quindi abbiamo finito le azioni del corpo, abbiamo visto che vanno dalla più pesante alla meno pesante in termini di retribuzione di sofferenza. Adesso entriamo in quelli della parola, sono quattro. La prima è il mentire, quindi il mentire significa intenzionalmente, senza errore, quindi avere il desiderio di cambiare la discriminazione di qualcuno rispetto a qualcosa. Vediamo, andiamo nel dettaglio. Quindi anche qui dobbiamo avere una base, un'attitudine suddivisa in tre, il compimento dell'azione e il culmine di questa azione. Allora, le basi in generale vengono presentati come 8, è il mentire rispetto a quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo, siamo in grado di distinguere, quello che abbiamo, ciò che possiamo distinguere e ciò che abbiamo compreso, conosciuto, o l'opposto, quello che non abbiamo udito, capito, eccetera. Quindi la base, l'azione completa, sì, la persona capisce quello che stiamo dicendo, capisce le nostre menzogne, allora l'azione è completa, altrimenti è un parlare, un po' un parlare a vanvera. Quindi la percezione deve essere quindi una rappresentazione erronea della propria percezione, della propria, di quello che abbiamo discriminato. Anche qui le afflizioni sono i tre, e quindi l'azione stessa è l'indicare tramite il parlare, tramite il scegliere di non parlare o tramite segni, quindi, di cambiare questa discriminazione tramite questi vari mezzi. E la stessa cosa se lo facciamo noi o chiediamo a qualcuno di farlo, non cambia niente. Quindi la culminazione, come l'avevo introdotto, è quando la persona, l'altro, comprende. Quindi queste quattro basi con le loro suddivisioni e caratteristiche sono le stesse per la parola che divide e la parola che ferisce. Okay? Quindi qual è la retribuzione del mentire? Quindi abbiamo anche qui un'esperienza, un karma proiettante, poi quando si ritorna nella sfera umana, allora uno non sarà considerato come degno di come fonte valida, anche se avete ragione, nessuno vi ascolta, nessuno vi crede. Sperimenterete molto intorno, se sperimentiamo molto intorno a noi, delle parole false e delle persone che cercano anche a ingannarci, to deceive someone, non so come si dice, imbrogliare. Quindi dice che sì, nessuno ci ascolta, anche se diciamo delle cose che hanno molto senso, nessuno ci ascolta, sì, parliamo proprio della verità, nessuno ci ascolta, e neanche i vostri consigli non vengono presi in considerazione, ma anche le vostre idee, certe volte, sì, così, a livello dell'ambiente. Quindi si prende rinascita in un ambiente dove ci sono molte persone che imbrogliano, molte persone che ci sono ladri, molte persone che non si può appoggiare su nessuno, non si può affidare a nessuno. Questo è molto, cioè, molto presente nella nostra realtà, questa cosa. E anche i nostri sforzi non portano risultati. Facciamo dei sforzi sia nell'ambito degli affari, eccetera, o per non so qualsiasi tipo di impresa che vogliamo portare avanti, progetti qualsiasi, molto difficile. C'è molta disarmonia anche tramite persone che lavorano tra di loro. E si dice che uno, a livello dell'attitudine mentale, uno non è mai all'interno dell'esperienza mentale, è che c'è sempre paura nella propria mente, facilmente, no? E ci sono comunque nell'ambiente, dice, cause che giustificano questa paura, che paura dei ladri, non so, varie cose. Ok, poi abbiamo le parole che dividono. parole che dividono. Quindi la base sono sia delle persone compatibili che le persone incompatibili, non cambia niente. La percezione è la stessa, le afflizioni sono le stesse. La motivazione quindi è il desiderio di mantenere separate persone già separate, ok? O di separare delle persone che vanno bene insieme. Possono essere coppie, possono essere degli amici, possono essere dei collaboratori, non importa. Okay? E quindi l'azione è l'espressione di un soggetto, ok, che sia piacevole o spiacevole, falso o vero, per il proprio proposito o per il proposito degli altri, non cambia niente. Cambia niente, ok? E il culmine, la conclusione è che quando l'altro capisce le nostre parole, a quel momento abbiamo compiuto l'azione che è la parola che divide. Anche qui abbiamo quattro tipi di risultato, ok? Effetto proiettante è quando si ritorna nella sfera umana, uno è da solo, ha pochi amici, pochi seguaci, pochi collaboratori. È una molta difficoltà a stabilire delle relazioni armoniose con gli altri, grande difficoltà. E anche nell'ambito dei propri collaboratori o anche nell'ambito della propria famiglia c'è sempre disarmonia, molto difficile di essere in un ambiente armonioso. A livello ambientale, quindi, come dicevo, abbiamo un posto sterile, inospitabile, dove ci fa molta fatica anche a progredire in quell'ambiente, no? Ci sono rocce, dove la comunicazione è difficile, anche proprio il comunicare diventa difficile. Ci sono pochi mezzi di trasporto e bisogna portare delle cose pesanti su grandi distanze. Questo è l'effetto ambientale della parola che divide. Poi troviamo anche in un altro testo, perché questo ho vari estratti di vari testi. Principalmente tutte queste informazioni provengono dell'Amrim Chenmo e dell'Amrim Intermedio, entrambi di Lamazon Kappa. Anche qui aggiunge che ci sono molte ragioni per essere spaventoso, spaventato nell'ambiente dove uno sta vivendo. Poi abbiamo le parole che feriscono, parole dure che feriscono. Quindi la base è un essere senziente col quale verso il quale possiamo generare ostilità. Questa è la base. La percezione è la stessa, afflizioni sono le stesse, abbiamo tre. La motivazione è il desiderio di parlare in un modo offensivo, si dice offensivo? Di offendere, okay? Il desiderio di offendere. Allora, l'azione stessa quindi è dire qualcosa di spiacevole, che sia vero o falso, a proposito della famiglia, del lineaggio, del corpo, del proprio comportamento, della propria etica, dei propri difetti. Basta che sia motivato, quindi può essere vero e falso, basta che sia motivato dal desiderio di offendere. E il culmine è quando la persona lo capisce. Quindi non necessariamente la persona deve essere offesa, basta che comprende le parole. Anche qui abbiamo quattro maturazioni, quando si ritorna quindi nella sfera umana. Allora, ogni volta vi ho saltato che abbiamo la tendenza simile alla casa, quindi dovuta a compiere questa azione, abbiamo una predisposizione per portarle avanti e anche vengono naturalmente, spontaneamente. E ogni volta anche la nostra abilità è sempre più acuta. Stabilità è sempre più acuta. Per esempio, come dicevo l'altra volta, forse con voi che avevo fatto l'esempio, no? Di quando qualcuno ci critica nell'ambito del lavoro, della vita di tutti i giorni, no? Quindi cioè, qualcosa ci ferisce, allora maturiamo la sera o per un po' di giorni, quindi cioè, elaboriamo questo processo di come lo potremo, in quale situazione lo potremo ricambiare, questa gentilezza che ci ha fatto, e cosa andremo a dire, eccetera. Quindi c'è tutta questa attività mentale non virtuosa, okay, che ci può accompagnare certe volte anche per anni, perché un continuum di risentimento lo possiamo portare avanti per anni. Quindi tutti questi eventi mentali, no? In un schiocco di dito ne abbiamo 65, sono non virtuosi. Quindi in quel modo c'è questo continuum di non virtù che viene accumulato, okay? E quando siamo nella situazione giusta, allora la percezione, cioè la base, quindi la persona, cioè il riconoscimento della base è perfetto, la motivazione è ben maturata, perché è qualcosa che abbiamo maturato da giorni, da mesi, quindi è ben ben potente la maturazione, okay? E andiamo a scegliere, cioè perfettamente, sappiamo perfettamente che cosa dire per ferire la persona in un modo perfetto, no? Cioè, senza pietà, cioè, l'esecuzione è perfetta, e alla fine il rallegrarsi è perfetto. Quindi nella non virtù siamo veramente degli esperti, Nella virtù è un'altra storia, facciamo fatica per generare la motivazione, facciamo fatica per avere qualcosa di qualità, concentrato, e alla fine facciamo anche fatica per le dediche. Questo è il nostro stato, ecco perché siamo sempre in stati sofferenti. Ok, quindi l'effetto ambientale, l'effetto simile alla causa, ok? Quindi ovviamente saremo circondati da persone che parlano negativamente di noi, ok? Sempre. Ascolteremo sempre delle cose che ci feriscono, che ci offendono, e anche questa chiacchiera negativa su di noi sempre onnipresente, eh? E anche se cerchiamo di essere buoni con gli altri, cioè viene malinterpretato, e gli altri invece interpretano questo negativamente. Questo è il risultato delle parole che offendono. Gli altri ci parlano in un modo spiacevole con noi e di noi. E a livello dell'ambiente, quindi l'ambiente è inappellente, non attraente. Ci sono delle rocce, cioè con delle punte, ci sono delle... pieno di alberi con delle spine, no? In qualsiasi modo ci muoviamo è sconfortevole per il proprio corpo, no? Non ci sono laghi, non ci sono cascade, tutto è secco, arido, salato, sterile, è abitato da animali pericolosi come serpenti, scorpioni, okay? Delle bestie, qui in Italia non è che i serpenti, però mica tanto. E sono molte cose quindi per essere spaventato, molte ragioni per essere spaventato. Sì, la Mazzungaba aggiunge che ci sono anche delle persone che cercano sempre a imbrogliarci. Ok, il parlare a vanvera. La parola è priva di significato, può essere anche tradotto in quel modo. Quindi la base è un discorso a proposito di un argomento priva di significato, priva di importanza, priva di significato. La percezione Questo è interessante, non necessariamente non necessariamente c'è bisogno di qualcun altro, non necessariamente, cioè possiamo parlare da solo. L'afflizione sono i tre, la motivazione è il desiderio di far di avere un discorso arbitrario, okay? O di far delle, come si dice, remarks? Dei commenti sconnessi, arbitrari, okay? Quindi il culmine è quando si parla, scusate, l'azione è proprio quando si parla, e il culmine è quando si è finito il proprio discorso, quando è stato finito. Quindi in generale sono sette basi, vengono presentate sette basi, quindi le basi sono i tipi di discorsi, ok? Quindi parlare di divisione, parlare di conflitti, ok? Di argomenti, espressione anche di scoraggiamento, tutte queste cose. Il parlare di vari divertimenti, okay? Fare dei commenti sul governo, sulle nazioni, tutte queste cose, okay? Avere un discorso, cioè parlare come una persona ubriaca, o parlare dei medi di sostenimenti erronei, ok? Perché tutte queste cose sono le basi di... In generale, io ho sentito anche che deve essere un discorso che noi lo dobbiamo anche percepire come avendo una certa importanza o come giustificato, ok? Comunque, siamo degli esseri sociali. Quindi sì, dal giorno all'altro ci mettiamo di parlare di questi vari argomenti, allora cioè, diventa difficile di esprimere una sola parola durante il giorno. Okay? Quindi l'importanza è la motivazione con la quale facciamo queste cose, no? Con la quale entriamo in contatto con gli altri. Sì, questi discorsi sono motivati da afflizione mentale, come l'avversione o come l'attaccamento, allora l'azione viene fatta, altrimenti sì, semplicemente andiamo a scambiare delle parole con qualcuno semplicemente perché è per interesse per la persona, o semplicemente perché c'è un beneficio, o cioè perché siamo degli esseri sociali anche, allora cioè, non penso che sia così pesante. E adesso entriamo nelle tre, allora sì, i risultati di questo sono i risultati di questo. Sì, sì, i risultati. Allora, il risultato simile alla causa, quando si ritorna nella sfera umana. Allora, uno non ha assolutamente nessuna autorità sugli altri, cioè nessuno, qualsiasi, ok? Qualsiasi il discorso non viene considerato, non viene ascoltato, ok? E uno è anche dotato di poca confidenza, di poca fiducia in sé. Si dice così? La fiducia? Fiducia in se stesso, ok? Questo è il risultato, ok? Tutto ciò che, anche se uno ha delle buone idee, gli altri le considera come ridicoli. Questo è il potere del caso. Non so se vi è già capitato, ma anche nell'ambito del lavoro, andate in una riunione, avete delle idee e non vengono neanche percepite, e l'altro a fianco ha la stessa idea, è fantastico, bla bla bla bla bla. Questo è il risultato del parlare a vanvera. Come? Non necessariamente. Okay? Allora, il risultato ambientale, uno prende rinascita in posti dove le raccolte non dei campi, eccetera, sono pochi. Le risorse materiali e queste raccolte, questi campi, sono facilmente perse o distrutte. E la bellezza fisica e la forza fisica facilmente degenera, velocemente. Okay. Sono le persone che invecchiano più velocemente che gli altri, per esempio. Quindi l'Amazon Gandhi dice che ci siamo anche circondati, siamo anche un ambiente dove ci sono molte persone che cercano a imbrogliarci. E tutto, sì, il terreno non è uguale, cioè sono molte, non è uguale. È privo di frutta, privo di frutta. Ok, adesso passiamo a quello della mente. Quindi quello del corpo e della parola erano classificate dalla più pesante alla meno pesante. Adesso quello della mente è l'opposto, son classificate dalla meno pesante alla più pesante. Ok? Allora, rispetto alla mente, la prima è la bramosia. La bramosia, quindi anche qui c'è una base, c'è un'attitudine composta di una percezione, un'attitudine e un'afflizione. Quindi la percezione, lo sappiamo, deve essere di percepire la base per ciò che è, di percepire il fenomeno per ciò che è effettivamente. L'afflizione, qualsiasi dei tre, in generale viene portata a culmine con l'attaccamento, la brama. La motivazione è quindi la base, non l'ho chiarificato, sono le cose che non vi appartengono. Cose che non vi appartengono. Per esempio, cose che vedete nei negozi, o nei cataloghi, o su internet, o in TV, tutte queste cose. E quindi il desiderio, quindi la motivazione, è il desiderio che queste cose un giorno diventano vostre, o diventano nostre. E l'azione è il contemplare, c'è uno sforzo nel contemplare questo proposito. E il culmine è quando quindi generiamo questo desiderio, si poteva avere questa cosa, sì, questa cosa poteva essere mia. A quel momento l'azione di bramosia è completa. Quindi viene portato in generale al culmine anche con cinque attitudini, ci deve essere un forte attaccamento ai propri possedimenti, okay? Una mente che ha un forte desiderio per accumulare le varie cose, una mente d'invidia, di essere priva di vergogna. È una mente anche che desidera sperimentare il risultato del possesso di questa cosa, del possesso, risultato del possesso dei beni degli altri o che non ci appartengono. L'esperienza simile alla causa avremo grande difficoltà a attualizzare i propri scopi, i propri obiettivi, uno degli obiettivi, grande difficoltà per attualizzarle. Una mente con grande attaccamento, forte attaccamento, è sempre insoddisfatta, grande insoddisfazione, contentezza. Grande mancanza di contentezza. Si dice così in italiano? Okay. anche le cose che avete, ossia riuscite a ottenere qualcosa, molto velocemente degenera. Per esempio, non so, vi comprate una camicia e il giorno dopo fate una macchia che non va via. Questo è il risultato della bramosia. O vi pagate qualcosa e lo fate cadere, si rompe poco dopo, ok? Questo è il risultato della bramosia. Quindi non necessariamente in questa vita, non necessariamente bramosia rispetto a ciò che avete comprato, ok? Questo sono, vi ripeto, no? È l'energia che è rimasta da quando si ritorna nella sfera umana. Quindi non necessariamente tutte queste cose, no? Che rompete qualcosa perché avete avuto brama rispetto a questa cosa stessa. Assolutamente no. Cioè accade a caso. L'ambiente è anche interessante. L'ambiente, le raccolte sì, sono povere, i mezzi di sostenimento sono pochi, tutto è, come dicevo prima, no? Velocemente è distrutto o si perde. E qui, scusate, ho fatto un errore prima. Nel parlare a Vavera ho detto che la bellezza e la forza fisica velocemente degenera. No, questo è il risultato della bramosia. Okay, ho letto male. Bramosia, quindi bellezza e forza fisica degenerano velocemente. Quindi un posto dove le cose belle... sono poche, c'è poche cose belle quando vi girate intorno, sono molte argomenti, sono anche guerre, ladri, sono malattie contagiosi, poca acqua e le cose preziose scompaiono molto velocemente e tutto si deteriora velocemente. Ok, dopo c'è la malevolenza. La malevolenza. Allora, la malevolenza è la base, abbiamo una base, quindi è esattamente la stessa che nel caso della parola, la parola che ferisce. La percezione è la stessa, le afflizioni sono la stessa, la motivazione è il desiderio di colpire le persone, colpire la persona, quindi pensando... sarebbe buono se gli poteva capitare qualcosa a lui o se gli potevo far questo. Questa è la malevolenza, no? L'azione è aver quel tipo di pensiero. E il culmine è quando abbiamo questa determinazione, viene generata nella mente la determinazione di far qualcosa per danneggiare questa persona, no? Quindi abbiamo l'azione è veramente completa con 5 attitudini, abbiamo quindi un'ostilità. Che questa ostilità viene anche reiferata, cioè è aumentata dovuta al cogliere le caratteristiche che sono cause di danno. Dobbiamo avere un'attitudine anche impaziente, un'attitudine di risentimento, un'attitudine di invidia anche e mancanza di vergogna anche rispetto alla propria attitudine. Quindi in breve, sotto una forma semplice, è il desiderio di danneggiare qualcuno, o che del male o che delle difficoltà capitano a qualcuno, o il rallegrarsi di questo. Questa è la malevolenza. Effetto simile alla causa. Allora, uno dopo, quando ritorna nella sfera umana a livello mentale, può essere preso di momenti di panico, molto molto facilmente va in panico questa persona, quindi la mente è fragile, e anche delle paure non ragionevole, non, come si dice, non, sì, non ragionevole. Questa persona sarà una persona che ricercherà naturalmente ciò che non è di beneficio e non ricercherà invece ciò che è di beneficio. Avrà un'attitudine, una predominanza una facilità al danneggiare gli altri. E comunque gli altri ci danneggeranno o cercheranno a danneggiarci nella vita futura. Qui anche qui l'ambiente è un ambiente dove ci sono molti conflitti, molti argomenti, malattie contagiosi, dove si sentono anche molte insulte e dove le cose cattive ai nostri incontri sono molto diffuse. Dove c'è poca acqua e dove le cose belle e preziose scompaiono. Poi abbiamo l'ultima, che le visioni errate. Allora, le visioni errate sono la base e rispetto a un fenomeno esistente, ok? A un fenomeno esistente. La percezione, quindi, è il negare l'esistenza di un fenomeno esistente. Quindi è un negare erroneo l'esistenza di qualcosa. L'afflizione può essere uno dei tre. La motivazione è il desiderio di negare l'esistenza di un esistente. L'azione è l'iniziare quell'attitudine. E quindi abbiamo in generale il negare, c'è anche un negare erroneo delle cause, un negare erroneo degli effetti, e un negare erroneo delle attività, e un negare erroneo dell'esistenza di certe entità. Quindi in generale le visioni erroneo sono rispetto a delle cause, rispetto a dei risultati, rispetto a delle attività, o rispetto a delle entità, all'esistenza di certe entità. Okay? Quindi il culmine è quando si genera, dopo riflessione, certezza rispetto alla propria posizione. Quindi, per esempio, negare la legge causa-effetto, negare l'esistenza della liberazione, l'esistenza dei superiori, l'esistenza di qualcuno che può realizzare la verità ultima, queste sono cose molto comuni. Ok. Allora, il risultato simile alla causa. Uno, quindi, quando ritorna all'essere umana, molto ottuso, okay, rimane nell'ignoranza rispetto alla visione corretta. Anche così c'è. Così. Molte difficoltà a generare comprensione rispetto a certi argomenti, qualsia in generale, non nell'ambito del Dharma, ma in generale c'è difficoltà di comprendere le cose, non molto acuto. C'è grande confusione. Difficoltà quindi di acquisire conoscenza e realizzazione. Okay? Poi abbiamo il risultato ambientale, un posto dove le cose belle sono pochi, dove abbiamo guerre, dove sono le malattie contagiose, dove le risorse mancano e dove ciò che è contaminato appare come puro, cioè ciò che è nella natura, ciò che è sporco appare pulito, eccetera, dove la sofferenza appare come felicità. Un posto dove sì, c'è cecità, grande cecità, dove le raccolte non sono distrutte, o non è che sono distrutte, ma non fuoriescono, non crescono, e dove c'è poche opere d'arte, poche scritture di significato, e dove non ci sono guide spirituali autentici. Okay? Quindi questa era una presentazione molto veloce delle 10 azioni non virtuose. Ok, domande. Quindi prima, possiamo vedere che alla luce di questo possiamo vedere anche nella nostra vita di tutti i giorni quali sono i problemi che incontriamo, e vediamo che li incontriamo più o meno tutti, però certi sono predominanti nella nostra esperienza. In quel modo possiamo mettere il dito su le cose che sono, cioè possiamo capire dove provengono queste cause, e possiamo correggere queste cose in modo di non sperimentare tale risultato nel futuro. Okay? Quindi però vediamo che il nostro karma, no, è un miscolo di tutte queste cose positive e negative, no? Cioè abbiamo degli aspetti positivi nella nostra vita, ma abbiamo anche degli aspetti negativi, e tutto quindi è miscolato. Quindi non siamo, per esempio, noi siamo in posti molto, cioè, abbastanza piacevole, no? L'Italia, la Toscana è abbastanza piacevole, nonostante possiamo cogliere elementi che corrispondono a effetti ambientali di maturazione di azione negative, e possiamo capire anche, per esempio, che sono certi posti che sono molto aridi, dove sono molto conflitti, le vediamo tutti i giorni in TV, questi posti dove sperimentano guerre da 20, 25 anni, da 30 anni anche certi, dove ci sono sempre violenza, dove tutto è arido, no? Questi posti in Medio Oriente, cioè, dove vediamo proprio che è il risultato dell'azione di uccidere e della malevolenza, no? E delle parole che feriscono. È veramente è chiaro. Comunque, ok, avete un paio di domande prima che vi auguro una buonanotte? Sì. Senza? L'autorizzazione. Esatto. Se io mi approprio di una cosa perché so che la persona me la darebbe, io me la approprio, poi quando arriva la persona dice guarda, mi sono appropriata, è sempre uguale. No, a quel momento no. Nel senso, se tu vai da questa persona e dici guarda, ho preso questa cosa, non è rubare. Però c'è uno sconforto. C'è una sconforto a un certo livello. Ti dico, la legge di causa effetto, io posso rispondere a pochissime delle vostre domande, perché questo, infatti, nei trattati, no, sapete, sono vari tipi di trattati. Abbiamo i trattati dell'Abhidharma, che presentano l'aspetto di saggezza. Abbiamo i trattati che presentano lo sviluppo, che sono i sutra, i trattati del sutra, che presentano lo sviluppo della concentrazione degli antidoti, e i trattati che presentano tutto ciò che è la disciplina, okay, monastica, eccetera. E all'interno, all'inizio di questi trattati c'è un omaggio, quindi per ciò che riguarda la saggezza c'è l'omaggio a Manjushri, perché è la personificazione della saggezza. Per ciò che riguarda lo sviluppo della concentrazione abbiamo un omaggio all'inizio ai Buddha, ai Bodhisattva. Poi invece per ciò che riguarda la disciplina, l'aspetto etico, quindi veramente la legge di causa effetto, perché è questo, no? La disciplina è la legge di causa effetto. L'omaggio viene fatto all'onnisciente, è proprio perché è proprio la sua sfera di conoscenza, è l'unico che potrebbe dire, allora, cioè, nel senso, cioè, il Buddha potrebbe dirci individualmente qual è la causa del ritrovarci qui adesso, in questo giorno, in questo posto, che cosa individualmente abbiamo compiuto nel passato per trovarci qui. Quindi ha la percezione diretta di questa cosa, esattamente come si può percepire un olivo umido nel palmo della mano. Nello stesso modo lui percepisce questa relazione di legge di causa-effetto, che è una legge che regisce l'esperienza dei fenomeni, è una delle varie leggi dell'universo, no? Abbiamo la pesantezza, che è una energia fisica, e c'è questa cosa della causa dell'effetto. Quindi, infatti, ci sono dei periodi, c'è stato un periodo dove per 2 settimane il Buddha ha fatto in certo modo miracoli per aumentare la fede dei discepoli e per sconfiggere i Tirtika in un buddhisti che lo provocavano in pubblico. E uno dei suoi dimostrazioni che ha fatto, aveva chiesto a delle persone che non conosceva, quindi, di portare dei semi dei loro campi, di portarli e di mettere in sacchetti dei vari posti dove loro abitavano o da posti dove non abitavano, di metterle in sacche uguale. Il Buddha, prendendo questi semi, era in grado di spiegare a che famiglia apparteneva al campo, qual era la sua orientazione rispetto al sole, eccetera, eccetera. Quindi la sua percezione è proprio illimitata rispetto ai fenomeni conoscibili. Quindi mi è molto difficile rispondere a domanda sul karma. Comunque, non è un'azione di rubare dal momento nel quale tu chiedi. Però all'inizio c'è comunque un'azione di prendere ciò che non è stato dato. Okay? Non è che la persona ne devi sentire la mancanza. Non è questo il punto. Il punto è prendere ciò che non è stato dato. Dopo questa cosa la puoi correggere chiedendo il permesso in un secondo momento. Però c'è comunque prendere ciò che non è stato dato. Quindi c'è un sconforto in questa configurazione. Ok? Quindi la legge del karma è qualcosa di difficile da accettare per noi, molto difficile, però dobbiamo cercare di rifletterci sopra e di piano piano guadagnare una certa fiducia in questa cosa, okay? Analizzando, riflettendo, Quindi lo scopo di questo insegnamento è di aiutare gli esseri a eliminare le cause della sofferenza. Cioè, il Buddha ha percepito che le cause principali della sofferenza erano queste 10 azioni, quindi le ha presentate e ha detto: guardate, fate quello che volete, però se non volete sperimentare questo, smettete di fare questo. Punto. Questa era la sua motivazione. Se noi lo facciamo, non lo facciamo, questa è un'altra storia. Quindi, quindi lo scopo di questo è di riuscire a eliminare queste azioni delle nostre abitudini. Come dobbiamo fare? Dobbiamo quindi prima analizzare quali sono, capire bene qual è l'entità di un'azione, quindi le varie componenti di questa azione. Abbiamo una base, abbiamo un'attitudine con le varie suddivisioni, ci deve essere la percezione, ci deve essere la motivazione, ci deve essere l'afflizione, ok? Quindi si manca qualcosa, già l'azione è più debole o non è completa, poi abbiamo la preparazione o il compiere l'azione e alla fine abbiamo la conclusione. Dobbiamo avere tutte queste cose ben chiare e dobbiamo poi vedere quali sono i risultati, quindi capire che l'azione pesante ci propulsa in stati di sofferenza e poi vedere dopo quali sono i risultati che derivano a livello umano, quando ritorniamo alla sfera umana, di queste variazioni, e di vedere che comunque noi non vogliamo sperimentare la minima sofferenza. Questa è la nostra realtà, neanche nei nostri sogni non vogliamo sperimentare sofferenza, no? Se il sogno che non è niente di reale è spiacevole, cioè ci lamentiamo anche quando i nostri sogni sono spiacevoli. Quindi dobbiamo prendere queste varie informazioni, leggere a vedere che si continua a far questo, sperimenterò questo o questo. Quindi dobbiamo riflettere in quel modo e determinarci quindi a non più compiere o a provare a non più compiere quel tipo di azione, perché non vogliamo sperimentare quel tipo di risultati. Questo è il modo di fare. La settimana prossima non ci sarà il nostro incontro, okay? Perché mi occupo di qualcos'altro, quindi ci vediamo tra 2 settimane, e continueremo. Questa volta continueremo con analizzare come un'azione diventa pesante e come un'azione diventa potente, quindi vedremo il sopporto, tutte queste varie cose. E dopo vedremo anche quali sono le cause specifiche di quello che abbiamo chiamato i 12 attributi speciali, che sono per esempio la ricchezza, lo stato sociale elevato, tutte queste cose. Tutte queste cose vedremo che il Buddha le ha anche presentato, ha spiegato le cause specifiche per sperimentare quello che chiamiamo le perfezioni dell'esistenza ciclica, se mi posso esprimere in quel modo, okay? Quindi apprenderemo quali sono le cause della felicità futura. Vi ringrazio e ci vediamo alla settimana prossima. Facciamo le dediche, quindi vi ricordate, cerchiamo di dedicare tutte queste energie virtuose che abbiamo generata per fare in modo che noi e tutti gli altri esseri senzienti molto velocemente otteniamo lo stato di Buddha, okay? Che tu, i maestri abbia una vita lunga, che i loro desideri siano esauditi, okay? È che il Dharma dimora per lungo tempo in questa sfera senza degenerare. E dedichiamo anche per fare in modo che molto velocemente possiamo generare la mente di Bodhicitta e realizzare la natura ultima dei fenomeni. Quindi io le faccio nella lingua tibetana e voi le fate nella vostra mente come volete. Gewa de nyo do da lama sangye drungyo ne drawa chinja malo ba de ye salanga ba jo jan jo zem jo rem ba je ma ge ba nam ge gyu ji yam ba nyam ba nyam ba yong go ne gong du ba lwa jo kare rawe gorwe jingam de dam dam de wa malu juwe ne chenre jiwa ten jing gya cho ye sabe zi de du deng yu ji da su jin ye sabe gya wa de dam dam dro wa ku na gam pe da jiang ba jin su lo zang dram pa yi ten pe nyam bo rin du sel je jo. Grazie.